Appena venne inghiottita dall'oscurità del chiostro, una figura mi si affiancò e una mano mi tappò la bocca. Non fiatare, sono Odifilo, ti accompagno di sopra, e mi liberò le labbra. Ancora tutta scombussolata, salii rapidamente le scale e mi intrufolai nella mia cella dove mi attendevano Marpessa e Peribea. Difilo chiuse la porta e vi si appoggiò, scuro in volto. Lo sai che cosa voleva fare la tua amica? E rivolse la fissità del suo occhio torvo a Marpessa, che se ne stava accovacciata sul primo giaciglio, gli occhi pieni di pianto. L'ho trovata alla fine delle scale con un coltello in mano, pronta a piantarlo nella pancia di Demostene. Stava per violentarla, eruppe Marpessa, il dolore sul volto e nella voce. Peribea si inginocchiò davanti a lei. E allora dovevi correre a chiamare Difilo. Avrebbe trovato lui un modo per distoglierlo dal suo proposito. Un velo di terrore le tinse il volto. Non la dovevi nemmeno pensare una cosa del genere, soprattutto in questo periodo. Ma lo capisci o no che Demostene potrebbe risultare decisivo per il piano di Peride? E scuoteva le spalle della giovane che mi lanciava sguardi supplici. Peribea volse il capo alla ricerca della mia attenzione. Assiotea, il signor padrone Demostene, così come tutti i padroni di questa terra maledetta, ha violentato tutte le schiave che ha voluto, compresa la sottoscritta prima dell'incendio. Per la legge non è un reato. Una coltellata nella pancia di Demostene non cambierebbe nulla, anzi, segnerebbe la fine non solo vostra, ma di tutti noi. I bellissimi occhi di Marpessa traboccavano di disperazione. Peribea sfiorò quelle palpebre con un tocco dolcissimo delle sue dita. Piccola creatura dal cuore puro, dobbiamo cambiare le leggi e la mentalità di tutti i signori padroni, di tutti, senza tralasciarne uno solo, se vogliamo assicurarci un mondo meno ingiusto. Difilo venne a sedersi sulla cassapanca accanto a noi, respirando a fatica, la faccia ombrosa, gli occhi sanguigni. Se la situazione dovesse diventare insostenibile, me lo dovete dire. Vi accompagnerò al santuario di Tiseo e delle Erinni. Lì troverete rifugio e forse Demostene sarà costretto a vendervi a un altro padrone. Fui io a intromettermi, con un tremore addosso che non accennava a spegnersi. E la storia ricomincerebbe, non è così? E immagino che tentare una fuga da Demostene ci costerebbe un marchio peggiore di quello a fuoco. Stavo per dirtelo, a quel punto converrebbe farla finita. La sua voce lamentevole era intrisa di dolore. Ci vogliono parecchie dracme per comprare la cicuta, ma almeno no, dicono che non si soffre. Quando siete disposte me lo dite, io e Peribea abbiamo qualche risparmio da parte. All'agorà si trova di tutto. E cercava di non fissarci. Gli misi una mano sulla spalla cercando di attirare la sua attenzione. Difilo, non prendertela solo con Marpessa, ti prego. Io avrei reagito come lei. E se Demostene mi avesse violentata, avrei ucciso lui o mi sarei uccisa io. E gliel'ho detto. Ascolta piuttosto. Credo che sarà difficile trasmettere a Iperide qualche notizia interessante sui movimenti di Demostene. Come mai? Ci dà da copiare le sue orazioni, le prove dei suoi discorsi, i documenti e i pensieri politici, ma le lettere no, quelle se le scrive da solo. Non si fida di nessuno. I fogli di papiro se li porta nella sua stanza da letto e li mette in un piccolo mobile chiuso a chiave. Era stata la voce delicata di Peribea a interromperci. Potremmo provare, è difficile, lo so, ma forse con i fogli che lui mette sotto. La voce tremula di Marpessa attrasse la nostra attenzione. Quel figlio del Tartaro ha l'abitudine di intingere il calamo, non quel tanto che basta, poco e spesso. No, lo tiene sempre immerso, mentre pensa. E quando poi si decide a scrivere, lascia dei segni molto profondi che trapassano i fogli, lasciando delle impronte da cui potremmo ricavare qualcosa. Difilo cercò i miei occhi in attesa di una conferma. Marpessa ha ragione, lui ha l'abitudine di mettere sotto il foglio su cui scrive un altro foglio pulito, ma non lo cambia e ci restano delle tracce. Vale la pena di provarci allora. Finalmente la forte tensione di poco prima sembrava essersi allentata. Assiotea, ho ascoltato l'ultima parte del tuo discorso. Lui quindi sa tutto. Non credo che Peride gli abbia ancora rivelato niente a proposito del tiaso dei copisti, ma del progetto di dare la libertà a tutti gli schiavi, sì. E se non convince l'assemblea con le sue argomentazioni, lascerà che ci provi Peride. e in quel caso vuole che io l'affianchi. Teribè e Marpessa mi fissarono stupite. Mi volsi verso Difilo e lo vidi finalmente disteso. Mi fissò a lungo in silenzio. Questo vuol dire che per lui è un tentativo da fare. Ma come ultima spiaggia ho cercato di smuovere il suo orgoglio e la sua superbia senza limiti. E ci sei riuscita, per Dio, annuiva incredulo. Mi sentivo finalmente rinfrancata. Difilo, ci porterai un giorno all'Agorà? Demostene mi ha detto che tu e Peribea dovete comprare abiti e calzari da uomo per me. Domani stesso. Ma prima Peribea dovrebbe rasare a zero quelle vostre teste matte. E cercando di ammiccare con quel suo povero occhio, aprì la porta e scomparve nella penombra del corridoio. Peribea si alzò in piedi. Fui io ora a gettarmi in ginocchio davanti a Marpessa, abbracciandola, baciandole gli occhi. Non lo fare mai più, capito? Vado giù in cucina e vi porto qualcosa da mangiare. La voce delicata di Peribea svanì, mentre Marpessa mi fissava con occhi imbevuti di una tragedia sfiorata. Difilo e Peribea parlarono a lungo con Ofione, mentre io e Marpessa mettevamo sottosopra tutta la bottega alla ricerca di qualche trattato di atomismo, ma senza alcun risultato. Stavamo chine, frugando in uno scaffale pieno zeppo di papiri dedicato a Omero, con una serie impressionante di versioni dell'Iliade, quando il vocione possente del vecchio libraio ci richiamò dalla polvere. Abbracciammo il vecchio. Ora sapevamo quanti rischi si era assunto nel fare da collegamento con tutti gli adepti del nostro Tiaso. Dimmi, Assiotea, non ti arrendi ancora? E mi fissò con quei suoi occhi spiritati. Ofione, io scoprirò che ho ucciso mia madre perché. Assiotea, credo che questa storia abbia inizio con il mestiere di tuo padre. È stato lui a tirarti dentro questa faccenda. Mio padre, certo. Tutto gira attorno a lui. Conosce sicuramente la persona che gli ha affidato le due copie del grande ordinamento. E questa persona pensa che a Piramo e ai suoi copisti di Filionte non interessi il contenuto dei libri che copiano. A questa persona occorrono molte copie del grande ordinamento per poterle poi diffondere, perché questo è il suo progetto. E infatti un esemplare giunge a Filionte, a casa nostra, affinché io e mia madre ne facciamo 5 copie. Un altro lo manda a te. Ofione, qui in questa bottega, forse non perché tu lo venda, ma perché tu lo legga. Perché conosce le tue abitudini e sa che leggi sempre un libro prima di venderlo. Guardavo Ofione fissamente, seguendo la luce che vagolava sempre meno incerta nella mia mente. Questa persona non vuol mostrare il suo volto perché il segreto nascosto in questo libro è qualcosa di estremamente pericoloso. Strinsi con forza la mano di Marpessa. Ma c'è il depositario del segreto, colui che sa, ma non intende assolutamente che questo segreto venga divulgato. Chiamiamolo per facilità il guardiano. Ecco, il guardiano parla con mio padre, si conoscono sicuramente, riesce a farlo parlare e non deve essere nemmeno difficile, visto che mio padre ignora il contenuto del grande ordinamento. Viene qui da te. E ruba la copia in tuo possesso, assieme alla lista delle persone che frequentano la tua bottega. Subito dopo si reca a Filionte per recuperare l'altro esemplare a casa mia. Aspetta che non ci sia nessuno e va lì, dove c'è la borsa con quella copia. Ma arriva mia madre, forse lo riconosce, lui la uccide. Mi sforzavo per non farmi sommergere di nuovo da tutto quel sangue. E poi cerca di far apparire l'assassino come un semplice furto, rubando anche altre cose. Però si tradisce perché porta con sé la borsa vecchia e non quella nuova, come avrebbe fatto un buon ladro. La storia sembra finita. Un raggio di luce riprese a scandagliare la mia mente. Ma il guardiano non può sapere se noi due abbiamo letto o no. Così continuerà a spiarci. Il vecchio seguiva il mio ragionamento senza fiatare. Ofione, se il guardiano dovesse pensare che noi conosciamo il suo segreto, ci ucciderebbe. Un altro pezzettino del mosaico. Mio padre non vivrà a lungo per raccontare questa storia. È l'unico che conosce il guardiano, che l'ha visto in faccia. Non credo che farà mai in tempo a raggiungere la Trinacria. Ecco perché tanta fretta di vendere la proprietà. Doveva aver intuito qualcosa dopo la morte di mamma. Marpessa mi dette uno strattone. Firomaco, al Pireo. Lui non vedeva tuo padre da oltre 2 anni. Eppure sapeva della morte di tua madre. Occhi ardenti, voce soffocata. Firomaco non mette piede qui da una vita, me lo ricorderei, lo conosco benissimo. La voce di Ofione vibrava di rabbia. Questo può significare che il guardiano non agisce da solo. I suoi occhi erano vigili. Io sono vecchio, mie piccole dee, ma voi dovete vivere. Mi raccomando, cercate di non parlarne con nessuno. Ci penserò io a domandare, capito? Qui si rischia la vita. Questo non è uno scherzo. Si accorse dell'espressione sgomenta delle nostre facce. Gli rammentammo della riunione presieduta da Iperide e della richiesta di cercare il grande ordinamento fatta a suo nome, ma di riferire poi ad Assiotea. Ufione prese a scuotere il capo sconsolato. Oh, demoni degli inferi! Ma è possibile, Assiotea, che tu non abbia capito che questa è gente spietata, che non si arresta davanti a nulla e nessuno? Eravate 100 copisti, ognuno di voi lavora presso un ateniese colto e influente. Chi volete che sia il guardiano, se non uno di questi? Lui adesso sa che lo stai cercando. Ti ucciderà, piccola mia. Il suo sguardo era impregnato di una nebbia sinistra. Prima che lui mi metta in bocca l'obolo per Caronte, scoprirò il suo segreto e lo svelerò a tutti. E finalmente mi sentii un po' rilassata. Un dubbio mi assaliva da tempo. Io lo sfogliai appena quel libro, proprio come te, Ofione, ma non abbiamo fatto in tempo a leggerlo. Il segreto era nel testo diretto, oppure era un testo eidetico. Accorgendomi dello stupore apparso sul volto di Marpessa, le spiegai che l'eidesis era una tecnica letteraria per trasmettere messaggi o segreti in chiave, e che consisteva nel ripetere parole o metafore che apparentemente potevano essere confuse con lo scritto originario, ma che, estratte da esso, avrebbero assunto una vita a sé stante. Ofione scuoteva il capo, serrando gli occhi. Assiotea, tua madre doveva aver letto qualche foglio. Mia madre definì l'autore un commediografo, pieno di fantasia. Parlava dell'atomismo, delle più piccole particelle di cui siamo composti. Ma hai sentito niente di simile, credimi. Nessun autore ha mai partorito simili fantasie. E tornò a fissarmi con un'espressione diffidente. Lo abbracciammo. Mi sussurrò in un orecchio di stare molto attenta. Lo lasciammo appoggiato alla porta mentre alzavo una mano per salutarci. Ci immergemmo nell'agorà, chiassosa e pullulante di colori come mai. Era l'ora della pletora. Visitammo parecchie botteghe in cui si vendevano calzari di tutti i tipi. Finalmente, in un variopinto magazzino accanto alla fontana dalle 9 canne, riuscimmo a trovare un paio di stivaletti da uomo che mi andavano bene. Difilo volle che me li lasciasse addosso, mentre Peribea era alle prese con il commerciante per contrattare il prezzo. Marpessa si era innamorata di un paio di sandali dorati, da donna, bellissimi, di quelli che dietro portavano la scritta «Seguimi». Difilo dovette sudare per convincerla che Clizia e Demostene non avrebbero certo sorriso della sua iniziativa, alla vista di tutti i clienti che le sarebbero andati dietro, seguendo quei sandali da prostituta. Poi comprammo pane di lana bianca. A casa mi avrebbero cucito un chitone e un imatio. Più difficile fu trovare una parrucca da uomo, ma nell'agora di Atene tutto era possibile. Di lì a poco, proprio davanti all'orologio ad acqua, incontrammo un venditore ambulante di papiri, un uomo di mezza età con un copricapo a forma di cono. L'uomo si chiamava Racio di Cirene, barba lunga e sottile, solo sul mento, probabilmente posticcia, occhi furbi. I calendari più originali dell'Ellade li ho io, rallegrati, Efebo. Vendo anche i proverbi più antichi e divertenti. Come ti chiami, bel giovane? L'uomo aveva una voce musicale. Racio, ascolta bene. Se riuscirai a trovare il libro che mi interessa, diventerai ricco. Sono disposto a tutto per averlo. È il più bel regalo che posso fare a mio padre. L'uomo aguzzò gli occhi. Dimmi di che si tratta. Il grande ordinamento di Leucippo. Dovrebbe essere un trattato di filosofia, sull'orfismo o sull'atomismo, ma potrebbe averlo scritto anche Onomacrito o Democrito. Mi sforzai di non mostrare la mia ansia. Ma hai sentito niente di simile? Hai provato da Ofione, lì dopo la rotonda. Mi guardava deluso, avendo intuito che non sarebbe riuscito a vendermi nessun papiro. Anche Ofione non ne ha mai sentito parlare. E chi è tuo padre? prese a rimettere a posto l'ultimo papiro che mi aveva mostrato. Racho, posso solo dirti che se trovi questo libro, probabilmente non avrai più bisogno di vendere papiri per il resto della tua vita. E respirai profondamente, con il cuore che mi batteva forte a causa delle mie menzogne. Quando avrai delle novità, comunicale a Ofione. Penserà lui a mettersi in contatto con me. E mi incamminai decisa, seguita dai miei amici. Capitolo 8. Il cerchio sacro della Pnice. Un mese dopo, alla fine di Gamelione, si tenne l'assemblea in cui Demostene non riuscì a convincere gli altri 7.000 ateniesi presenti a prepararsi alla guerra contro Filippo. Seguirono settimane di grandi manovre politiche. Io e Marpessa non facevamo che scrivere lettere sotto la sua diretta dettatura. Ci aveva proibito di rasarci la testa a zero, permettendoci di far ricrescere i capelli quel tanto da non farci individuare subito come schiave. Dal giorno in cui era stato sul punto di violentarmi, non aveva più neppure accennato a farlo. Era diventato nervoso come mai, non vedeva l'ora di offrire un'opportunità a Iperide, ma alla fine di ogni lettera che ci dettava, liberava il suo sarcasmo, sicuro che l'assemblea avrebbe rigettato la supplica. Marpessa e io avemmo pochissime occasioni per uscire. Una sola volta vidi Ofione e Racio, ma non avevano alcuna notizia del libro. Uno dei rari giorni di pioggia, Peribea mi disse che Iperide voleva parlare con me. Marpessa lo scongiurò di portare anche lei, ma Peribea fu inflessibile. Iperide aveva bisogno di parlare con me soltanto, doveva preparare l'assemblea della Pnice e Demostene non aveva niente da obiettare, purché una di noi due finisse il lavoro che ci aveva assegnato. La lasciai china sul tavolo nello studio del sotterraneo, occhi gonfi di paura. Raggiungemmo l'agorà. Gettai uno sguardo fuggevole all'acropoli, ai propilei e al Partenone, che si stagliavano sulle nubi nere. Si vedeva poca gente in giro. Stavamo percorrendo il portico di Pocile quando fummo costrette a fermarci. A pochi passi da noi, un uomo elegantemente vestito, alto e snello, coturni dorati ai piedi, inveiva contro un vecchio sudicio, piccolo di statura, sdraiato su un tavolaccio. «Stavo per cadere, pezzente! Sono inciampato nella tua maledetta tavola!» E gli mostrava i pugni inferocito. Il vecchio aveva la barba lunga. Intorno alla testa, una striscia di cuoio riusciva a malapena a tenere raccolta la zazzera untuosa. Mi dispiace, Midia, stavo provando di alzarmi, il legno è sgusciato via, ma non l'ho fatto apposta, l'hai visto? E tentò di ammansirlo con il barlume d'un sorriso indulgente. La sua era una voce sonora da oratore. Tu vuoi prendermi per il culo allora? È chiaro che non ho visto la tua maledetta tavola, pezzente d'un Diogene. Nel frattempo altra gente si era fermata per assistere alla scena. Il vecchio riuscì a tirarsi su, ad appoggiarsi alla colonna di marmo. Dal corto chitone di colore indefinito, per quanto era sudicio, sbucarono due gambe magrissime. Schiuse le palme delle mani, protendendole verso il riccone. Finché ci saranno i portici, questa tavola sarà la mia casa. Quando le guardie mi cacceranno dalla piazza, me ne andrò al Cino Sarge e mi rintanerò nella botte. E ti garantisco, nobile Midia, che non cambierei questa misera condizione con la tua. Perché sono tutti questi palazzi e tutto questo argento e oro che possiedi che ora ti fanno sentire così potente? Comincio a pensare che tu l'abbia fatto apposta, sporco miserabile, per provocarmi, per farmi cadere e rendermi ridicolo, oppure per darmi una lezione di oratoria. Ma ti sei fatto male i conti, pezzente. Guardati attorno, c'è gente che ha visto tutto. In qualche modo devi pagarla. Sarà un po' difficile, visto che tu stesso continui a chiamarmi con quel nome. Pezzente è uno che non possiede niente. È la mia forza, è la forza di tutti i poveri del mondo. Non ci potete rubare più nulla. Perciò, la prossima volta chiamami con il nome con cui ormai tutta Atene mi conosce. Scopazzo di Masturbia. E scrollò lievemente il capo, indirizzando uno sguardo pieno di dolcezza e di commiserazione al nobile. Midia gli si avvicinò. E all'improvviso gli sferrò un pugno tremendo al volto. Il vecchio s'accasciò mentre il sangue cominciava a colargli dal naso. La voce di Midia tuonò. Ora puoi anche passare dal tuo banchiere, pezzente. C'è un credito di 3.000 dracme per te. E si avviò, seguito da un paio di sfaccendati gongolanti. Corsi accanto al vecchio, gli porsi il panno con cui mi stavo coprendo il capo, lo aiutai ad asciugarsi il sangue, gli chiesi come si sentiva. Mi tranquillizzò, chiedendomi come mi chiamavo e da dove venivo. Glielo dissi. Mi guardò con i suoi occhi chiari, il suo ardore non sembrava essersi incrinato. Assiutea di Fliunte, se puoi, un giorno vieni al Cino Sarge e non ti spaventi il mio aspetto, né il mio soprannome. È teatro per attrarre l'attenzione, per scuotere le menti indifese. Volevo parlare con lui, ma per idea mi afferrò una spalla. Il mio braccio sinistro si scoprì. Il vecchio si accorse del marchio, mi fissò con gratitudine scrollando la zazzera, poi accennò a restituirmi il copricapo. Gli promisi che sarei ritornata e corsi via. Il quartiere del Collito non era pulito come lo Scambonide, ma nemmeno caotico come il ceramico. Le viuzze permettevano il transito anche di due persone affiancate. Molte fogne erano coperte, l'odore non era nauseabondo. Mentre cercavamo di proteggerci dalla pioggia sotto il mantello di pelle, raccontai a Peribea di quando avevo incontrato Iperide a Cleone nel tempio di Eracle. Omisi però la storia del bacio. Ma Peribea capiva al volo la natura umana. È un uomo affascinante, inutile negarlo. E crede in quello che fa, riesce a contagiare la gente con i suoi sogni. E tu sei così giovane e bella. Peribea, tu stessa mi hai detto di aver conosciuto Frine, l'etera amante di Iperide, donna di una bellezza incredibile. E lui ha rischiato tutto per difenderla davanti all'intera città. Saltavo da una pietra all'altra per non sprofondare nelle pozzanghere melmose. Assiotea, vi ho osservato benissimo quel giorno nella grotta del ceramico. Era come se entrambi sognaste. Intravidi il suo povero volto devastato dalle cicatrici che si apriva a un lampo di complicità. Dopo aver attraversato la piccola agorà del Collito, circondata da una fila di platani senza foglie, giungemmo finalmente a destinazione. Era una casa modesta, come tutte le altre del quartiere. Un tepore piacevole ci accolse quando Echidna ci fece accomodare nella cucina, porgendoci dei panni di lino per farci asciugare. Ci offrì poi una bevanda aromatica calda al miele, mentre Penteo andava ad avvertire Iperide. Stavamo sorseggiando il dolcissimo intruglio quando lui arrivò, il volto raggiante. Ci salutò felice, poi mi pregò di seguirlo nell'androne. La sala era decorata di mosaici colorati, uno di essi rappresentava il santuario di Cleone, il tempio di Eracle. Dal giardino giungevano lembi di cielo grigio. Mi fece accomodare sullo scanno accanto a lui, di fronte a un tavolo pieno di carte a cui stava lavorando. Fissò i miei sandali bagnati, ne prese un paio di legni asciutti. Dovetti metterli e solo allora il suo volto si distese. Dopo parleremo dell'assemblea e di come la dobbiamo affrontare. Prima però devi raccontarmi ogni particolare, a partire da quel giorno magico in cui ti ho incontrata Cleone. Protese le sue mani verso le mie dita, che fermavano per l'attesa, eppure le ritirai. Prima di raccontarti le mie vicende, dimmi come posso aiutarti nella Pnice. Tremavo per l'emozione. L'assemblea ci sarà tra 2 settimane, probabilmente 1 o 2 giorni prima dell'inizio delle feste Antesterie, l'11 di questo mese. Demostene è d'accordo sulla tua partecipazione, penso che te l'abbia già accennato. Vestiti in modo da sembrare un maschio, per carità, gli ateniesi sono così innamorati dei ragazzi effeminati che non faranno tante storie, soprattutto perché ci saremo io e Demostene. Tu passerai per quello che sei, un copista che attualmente lavora per me, il mio segretario è avuto in prestito da Demostene. Siederai accanto a me e prenderai appunti su quello che si dice. Con te avrai la mia orazione scritta. L'ho già preparata e te ne stavo facendo una copia. La conosco a memoria, ma nella foga di quei momenti potrei anche dimenticare qualcosa di importante. Mi mostrò i fogli. Ecco, guarda, all'inizio di un ragionamento sottolineo un rigo che poi sviluppo. Tu devi stare attenta a quando esaurisco l'argomento e ne inizio un altro. Suggeriscimelo a bassa voce. Al contrario di Demostene e di tutti gli altri, io parlo a braccio, non leggo. Questo piace molto agli ateniesi, ma comporta dei rischi. Normalmente questo ruolo è di Penteo. Perché io questa volta? È un'occasione speciale. La posta in gioco è altissima. Penteo è un bravo ragazzo, ma non ha una visione globale della materia. Non saprebbe mai intervenire per aiutarmi, perché noi non conosciamo quali saranno gli argomenti che tirerà fuori l'assemblea per ribattere le mie proposte. Tu questa potenzialità ce l'hai, Assiotea. L'ho capito nella grotta del ceramico. Con un sorriso genuino riuscì a spazzar via ogni residua traccia di amarezza dal suo volto. Vuole che gli raccontassi ancora una volta la mia storia. Quando ebbi finito, i suoi occhi erano feroci. Putrido mondo. Ma come si può diventare così? Come può Paionio o tuo padre averti trattato in quel modo? Un nervoso tormentio delle mani mostrava un'agitazione febbrile. Non ti chiederò di far l'amore con me, Assiotea, ma fatti stringere le mani. Voleva prendermi tra le braccia e me lo disse. Gli andai accanto, gli strinsi il capo sul mio petto. Gli passavo le dita sugli occhi umidi, emozionata come quel giorno nel tempio. Assiotea, tu pensi che tutti gli uomini siano uguali? Gli risposi con il mio silenzio e con le mie dita che gli accarezzavano il volto e la barba ispida. Il nostro cuore è come una grande casa, Assiotea, con 10, 100, 1000 stanze. Sono tutte vuote. Sta a noi riempirle con gli affetti, con gli amori. È una nostra scelta riempire una sola stanza o tante. E cercò i miei occhi nella penombra dell'androne. Lui, il nostro cuore, ce la fa a contenerne tanti. Tremavo, avevo il cuore in subbuglio. Mi si accavallavano fulmini simili a quelli che Zeus aveva cominciato a scagliare sopra Atene in quel momento. Si era scatenato un vero nubifragio. Iperide provò ad alzarsi, ma io premevo il suo volto sul mio seno. Le mie dita sprofondavano nello sciame dei suoi capelli. Mi inebriavo di quell'odore sano, attaccata ai suoi pensieri sani, alla sua dolcezza. Era una sensazione mai provata. Sentivo una forza spaventosa sul suo corpo, ma non mi avrebbe fatto mai del male. Fremeva di desiderio come me. La sua bocca mi cercava il seno. Le sue mani mi alzavano il peplo, ma la luce biancastra d'un fulmine produsse uno squarcio nella mia mente oltraggiata. Ricordi il letargo, l'immagine di Paionio, la notte delle nostre nozze, nell'Andron, con Nireo seduto sopra di lui e io, che li osservavo dal giardino. Mi alzai di scatto sconvolta, i suoi lineamenti erano piegati dalla delusione. Le feste antesterie per l'apertura delle botti di vino si sarebbe svolta dal giorno 11 al 13 antesterione, la data in cui Iperide avrebbe potuto deporre sull'altare il ramo della sua supplica per poter parlare all'assemblea, venne fissata per il giorno 10. Nel corso di quell'assemblea ci sarebbe stato anche il passaggio delle consegne dall'arconte eponimo uscente Apollo d'Oro al nuovo Callimaco. I miei capelli erano ancora molto corti e Demostene mi consigliò di mettermi la parrucca, il chitone, l'imattio e gli stivaletti da uomo. Ma lui non venne con me. Disse che non si sentiva bene quel giorno, che preferiva riguardarsi dal freddo. Iperide se la sarebbe cavata benissimo da solo.